Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. C'è una convenzione non scritta che fa parte del nostro bagaglio genetico. A un sorriso, l'uomo risponde con un altro sorriso. Sembra semplice e banale, ma se pensiamo alla storia dell'umanità, che è fatta prevalentemente di lotte e di contrapposizioni, questa convenzione diventa fondamentale per superare le barriere linguistiche, ideologiche e permetterci di arrivare direttamente là dove nascono le emozioni. Un sorriso riesce ad azzerare l'odio, la violenza. È col sorriso che l'uomo scopre la propria dimensione universale. I destini che si incrociano quest'oggi nascono da un sorriso, riuscendo a superare il clima di violenta contrapposizione che ha infiammato il mondo e causato la Seconda Guerra Mondiale. La storia di oggi è una storia di amicizia. Sono le 12 in punto del 20 luglio 1936. Tra le rovine dell'antico stadio di Olimpia, nel Peloponneso nord-occidentale, 15 fanciulle greche, con indosso corte tuniche di lana grezza, stanno posizionando tra il sole e una piccola fascina imbevuta di petrolio una lente di vetro concava perfetta, realizzata dalle industrie tedesche Carl Zeiss di Jena. Carl Zeiss di Jena. Il sole, in pochi istanti, è in grado di portare alla vita la fiamma olimpica. Un tedoforo, con in mano una torcia che brucia una miscela al magnesio prodotta dalle officine Krupp, già famose per la loro produzione di armi micidiali, raccoglie la fiamma e si dirige a passo svelto verso Atene. La strada è un po' accidentata, piena di buche, una carrozzabile non asfaltata. Le Opel, nuove fiammanti dell'organizzazione, fanno fatica a superare le difficoltà. Ma la marcia non può subire arresti. La fiamma è attesa a Berlino per il 1 agosto per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi del 1936. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Sono le parole di Adolf Hitler, che dichiara aperti i giochi olimpici estivi della Germania nazista, davanti a 115.000 spettatori riuniti all'Olympiastadion di Berlino e una quindicina di telecamere approntate dalla Telefunken. Rimandano il segnale a 25 maxi schermi sparsi per la città di Berlino e dimostrano la superiorità tecnologica della Germania. Quelle del 1936 sono Olimpiadi che non avrebbero dovuto tenersi in Germania. I giochi sono stati assegnati nel 1931, quando la Germania era ancora una democrazia parlamentare. Inoltre i nazisti sono contro i giochi e i valori di pace che rappresentano. Tutta la comunità internazionale è indignata per le leggi razziali chiaramente contro i valori delle Olimpiadi. Ma il regime ha cambiato idea. Ha bisogno di una vetrina internazionale. Nelle ultime elezioni libere del 33, infatti, più del 50% dei tedeschi non aveva votato il Führer. L'occasione dei giochi arriva puntuale per celebrare il debutto del nazismo nella società bene internazionale. La SS Manhattan salpa da New York alla volta di Amburgo. È una tratta abituale per l'imponente nave da crociera transatlantica. A bordo, l'intera squadra olimpica americana in elegante divisa scura con Panama bianco. Le squadre sono ben assortite, con una componente afroamericana di tutto rispetto, ma su questo ci torneremo in seguito. C'è anche una piccola delegazione femminile che per la verità darà scandalo per la società puritana dell'epoca. Nelle due settimane di traversata non manca il buon umore. Scorrono fiumi di alcol, tanto che si dice che il cocktail Manhattan prenda il nome proprio dal clima che impazza in quella nave nell'estate del 1936. I'm a cowgirl who never saw a cow, never roped a steer, cause I don't know how. The show ain't fixed to start it now, yibby-yay-o-ki-yay, yibby-yay-o-ki-yay. I'm an old cowhand from the Rio Grande, and I learned to ride, or I learned to stand. La nuotatrice Eleanor Holm Jarrett, una bella ragazza 22enne vincitrice dei 100 metri rana alle Olimpiadi di Los Angeles e data per favorita anche a Berlino, è a bordo con la squadra, ma ha il debole per lo champagne. Viene chiamata la splendida sirena di Brooklyn ed è la moglie di un direttore di una big band, ha la musica nel sangue e quando si aprono le danze non si riesce a frenare. Ama divertirsi con gli altri atleti. e dopo qualche bottiglia di bollicine si mette a cantare in mutande reggiseno con un cappello da cowboy sui tavoli del salone di prima classe. La canzone se la ricordano in molti, è I'm an Old Cowhand, successo che verrà ripreso un po' da tutti nei 70 anni a venire. Al suo arrivo ad Amburgo, la bella Jarrett, a causa del suo comportamento non molto elegante per una signora, viene espulsa dalla squadra olimpica, con grande dispiacere di tutti i suoi colleghi, che le regalano una scatola di fazzoletti con il biglietto «Fatti coraggio». La campionessa di nuoto, tuttavia, non perde tempo. Accetta l'offerta della International News Service di Hearst, come a dire la CNN di oggi, di diventare commentatrice giornalistica e partecipa immediatamente a una serie di party dati da Hitler, Goebbels, Göring, quando si dice il fascino della divisa. Intanto i suoi colleghi sono già tutti in ritiro nel villaggio olimpico. Come abbiamo accennato, la squadra è ben assortita. I trial, le prove che servono a selezionare gli atleti migliori prima delle Olimpiadi, sono stati aperti anche agli afroamericani. Beh, non proprio a tutti. Diciamo che gli stati più lungimiranti del nord hanno capito di avere tutto da guadagnare facendoli partecipare, mentre quelli del sud non lo concepiscono nemmeno. Sono i primi anni in cui gli atleti neri ricevono attenzioni e supporto. Il Comitato Olimpico Americano sa che si sta giocando una partita anche sul piano politico e vuole schierare i migliori talenti. Per questo nascono dei programmi specifici di allenamento per i meno fortunati campioni di colore. L'analisi del professor Carson della Stanford University è molto chiara. Quel periodo? Era ancora un'era di segregazione. Il cambiamento che era avvenuto prima delle Olimpiadi del 1936 è stata l'urbanizzazione degli afroamericani, che sono emigrati specialmente nelle zone urbane del nord. Hanno così potuto frequentare i licei, che avevano squadre sportive. Esattamente l'opposto che al sud, che non offriva nessuna struttura ai ragazzi neri. Così al nord i primi campioni di colore si affacciarono agli sport, specialmente quelli individuali come la boxe, la corsa. Un esempio è Jack Johnson, che arrivò a vincere il titolo mondiale dei pesi massimi, ma che venne travolto dall'invidia dei bianchi. Aveva infatti una fidanzata bianca e per questo venne arrestato. Insomma, potevi gareggiare, ma dovevi sempre restare un buon negro. I tedeschi hanno forgiato una squadra tosta, così come gli italiani, sferzati anche loro da un regime che ha una sola parola d'ordine: vincere. Almeno qualche medaglia. Per questo l'America, di neri docili e prestanti, ne ha un gran bisogno. In gioco non solo i primati e le medaglie, ma il prestigio internazionale, che si riflette sugli equilibri politici. Servono soldi e arrivano puntuali. Viene persino rifiutata una maxi offerta di sponsorizzazione, $100,000, da parte della General Mills, che produce i fiocchi di cereali Wheaties, con i quali tutte le mattine milioni di americani fanno colazione. Di soldi ce n'erano già abbastanza per quella che si presentava come la prova generale di un'altra competizione, quella sì drammatica e devastante, la Seconda Guerra Mondiale. Nella squadra americana, un velocista che arriverà a vincere una medaglia d'oro negli 800 metri. John Woodruff. È stata una sensazione speciale, quella di vincere una medaglia d'oro e di essere un uomo nero. Avevo fatto qualcosa di importante, che non era riuscita a nessuno negli ultimi 24 anni. Ero molto contento per me stesso, come individuo, per la mia razza, per il mio paese. John Woodruff non sarà il solo nero a partecipare e a vincere un oro. Con lui ci sono altri atleti, compreso il protagonista della puntata di oggi, che è un suo compagno. Un uomo capace di superare ogni record, così come di superare le barriere di un mondo che sta alzando muri e puntando le armi. Lo farà insieme a un altro atleta, che gareggia per la squadra tedesca. La storia li vuole uno contro l'altro e noi li conosceremo tra breve. Intanto stanno iniziando le celebrazioni della festa inaugurale. Sfilano le squadre. Ok, La Grecia apre l'entrata, come da tradizione. Poi la Svezia, la Gran Bretagna, con un drappello indiano con tanto di turbante che fa storcere il naso al Führer. E ancora i giapponesi, marziali, militarizzati. Gli americani che portano il cappello al cuore, ma si rifiutano di abbassare la bandiera davanti alle autorità tedesche. Grande applauso per l'Austria, un popolo considerato quasi fratello. E ora la volta dell'Italia, una squadra in cui, accanto agli atleti, sfilano altrettanti gerarchi nella loro divisa con camicia nera. L'Olympiastadion è gremito, ci sono 115.000 spettatori. E diverse cineprese stanno cogliendo la cerimonia da altrettante angolazioni. Tutto è diretto dalla prima regista dell'età moderna, la bella, giovane, potente Leni Riefenstahl, che sta girando il suo colossal Olympia. Qualcosa di più di un documentario, un'opera d'arte che la Riefenstahl sottrae ai tentativi di trasformarla in uno strumento di propaganda da parte del regime, opponendosi ad esempio alla voce fuori campo di commento. A commentator is an enemy of the film art. Il commentatore è il nemico dell'arte filmica. L'arte filmica è movimento e immagine. La perfetta combinazione tra movimento, ritmo e il suono dell'atmosfera di sottofondo. Avere una persona che commenta quello che accade non può produrre un film. È un'altra cosa. It's not film. Lei è interessata all'arte, alla propria visione della realtà. È un'artista completa che attraverso il cinema esprime il proprio tempo ed è pronta a difendere le sue idee. Ho detto a Hitler, non so se questo uomo è importante, se quest'altro lo è o se lo è quest'altro ancora. Io non ne ho idea. Quando faccio un film è solo dando importanza alle immagini, quello che mi importa per il montaggio e il ritmo. Lui mi ha risposto che non aveva importanza e che non voleva un film che riprendesse cronologicamente quello che accadeva. Sarebbe stato noioso. Così, per Olympia, ero completamente libera. Essere completamente liberi nella Germania nazista del 1936 è un privilegio la cui portata Leni Riefenstahl non può minimamente comprendere. Leni Riefenstahl, la più famosa regista tedesca, sta girando il documentario della sua vita. È un'opera d'arte sulle Olimpiadi di Berlino del 1936. Per lei, esteta del corpo umano e del tripudio delle masse, è un'occasione unica. Ma Goebbels, il potente ministro della propaganda, insiste per farne un manifesto di propaganda per il regime. Tuttavia il Führer ascolta più Leni del suo fido gerarca. Ha un debole per la bella regista, la quale fa tutto di testa sua. Lo dimostra lo spazio che la più famosa regista del regime di allora dedica nel film a un atleta nero e per giunta americano. Il suo nome è Jesse Owens. Jesse Owens. C'è il Terzo Reich che ha commissionato il film sui giochi, in cui gli ariani dovrebbero essere mostrati come vincenti. E c'è la regista più famosa del regime. E nonostante questo, se vedi il film Olympia, l'unica star che emerge prepotentemente è Jesse Owens. Così ne parla Jeremy Schaap, giornalista esperto di storia dello sport. Sfruttando il carattere docile dell'americano e totalmente rapita dal fisico imponente e allo stesso tempo elegante dell'atleta, lo convince a soffermarsi durante le sessioni di allenamento per riprenderlo con calma, lontano dalla concitazione delle gare, in primi piani che troveranno spazio nel montaggio del film. Nel suo documentario, l'atleta di colore godrà di uno spazio inusitato che non mancherà di far discutere i difensori della razza ariana. Jesse Owens è un velocista ed è venuto a Berlino per vincere. Amerikas schnellster Läufer, Jesse Owens ist am Start. È la batteria finale dei 100 metri piani. Jesse Owens vola, lasciandosi dietro il connazionale Metcalf e l'olandese Osendarp. L'americano corre come una piuma su un terreno pesante sul quale aveva appena piovuto e timbra un 10 secondi e 3 decimi che gli valgono la medaglia d'oro. Quel semplice ragazzo di Cleveland, Ohio, è felice come un bambino. Sono molto felice di aver vinto i 100 metri nei giochi olimpici qui a Berlino. Un posto magnifico, un'organizzazione eccellente. La competizione è stata di alto livello e sono molto soddisfatto della mia prestazione. L'impresa dell'eccezionale, se pensiamo che la pista è in terra battuta. Non esistono blocchi di partenza, ma solamente la possibilità di scavare con una paletta delle buche per puntare i piedi sulla linea del via.